I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. I would like to mention that a couple of days ago Senator Obama was out in Ohio and he had an encounter with a guy who's a plumber. His name is Joe Wurzelberger. Joe wants to buy the business that he's been in for all these years. Worked 10-12 hours a day. Signori e signori, è andato in scena il terzo dibattito presidenziale, John McCain sul palco, Barack Obama sul palco, un veterano della stampa, un moderatore di classe come Bob Schiffer della CBS sul palco. Nessuno di loro è stato però la vera star, la vera attrazione, il vero personaggio, il vero numero uno della serata, quello che si ricorderà, quello che già affolla YouTube, che adesso gli editorialisti si affannano a descrivere. Il suo nome, scusate la cifra poco spettacolare, no? Poco show business, è Joe Wurzelberger e non Joe Wurzelburger, come ha detto il buon John McCain, che abbiamo la sensazione che abbia fatto un piccolo errore nel pronunciare il nome di quello che comunque il mondo sta imparando a conoscere come Joe the Plumber, Joe l'idraulico, Gino l'idraulico, chiamate un po' come, chiamatelo come volete, è il cittadino americano medio, il membro della working class a cui si sono rivolti sia McCain che Obama. Il fatto è che non è solo il Joe Sixpack, no, che è stato evocato a suo tempo con successo da Sarah Palin, forse il miglior colpo sparato da Sarah Palin in questa campagna elettorale. Questo è un signore con una faccia, anche un faccione, una bella pelata, una ditta di idraulico da portare avanti faticosamente senza farsi troppo scannare, no, dagli esattori delle tasse di un eventuale presidente Obama, che ha incontrato Obama per le strade di Toledo, Ohio, e gli ha detto: ma non sarà che con te vado a pagare più tasse, non sarà che con te mi vado a mettere nei guai, io e quelli come me che lo circondavano in quel momento vogliamo capire che cos'è questa ridistribuzione di cui tu stai parlando in giro, ma non sarai mica un socialista. E allora John McCain l'ha chiamato in causa e è diventato il protagonista inconsapevole ma straordinario di questo terzo dibattito, che comunque è stato un evento sicuramente più vivace, anche più intenso, anche più significativo dei due che l'hanno preceduto, anche se la sensazione è che gli equilibri non cambieranno. Non a caso il pubblico, il gradimento del pubblico, mentre gli addetti ai lavori hanno detto no, McCain stavolta è stato più bravo, da Obama un po' troppo arido, il pubblico comincia a dare un gradimento che si appiattisce, che corrisponde agli stessi sondaggi. La sensazione è che forse gli americani stanno veramente producendo le loro scelte. Ma andiamo sul luogo del delitto, andiamo da Mario Platero, perché a non molti chilometri di distanza da New York si è svolto questo grande dibattito stanotte. Buongiorno Mario. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, dacci la tua versione dei fatti e soprattutto dacci la tua versione su Joe, naturalmente. Beh, sai, Joe, ormai tutti lo chiamano Joe, dimentichiamo il cognome, dimentichiamo tutto il resto, e questo signore, direi così, su una 35-40 anni, con una pelata completa, ed è un personaggio che voleva fare l'imprenditore, che quindi voleva comprare il suo business, voleva spendere $280,000, pensava che questo piano fiscale, perché poi il cuore della questione è quello, il piano fiscale di Barack Obama gli avrebbe impedito di coronare il suo sogno americano. Ecco, dietro questa apparente superficialità di Joe ricorrente, Joe con Barack Obama che gli parlava, Joe listen to me, oppure con McCain, well Joe you'll be better off with me, sarai meglio con me, quindi Joe è diventato appunto Gino, Joe, il personaggio familiare di tutti. In realtà c'è una strategia politica, secondo me, da parte di John McCain, perché Joe è dell'Ohio, è di Toledo, è di un paesino nel mezzo dell'Ohio, e dunque l'Ohio è uno dei toss up state, uno degli stati indecisi, uno degli stati in cui Barack Obama è in vantaggio di 3 punti percentuali, che diciamo dal punto di vista statistico non rappresenta una variazione così impossibile da recuperare per McCain, e dunque avendo portato Joe, avendo portato l'Ohio al centro del dibattito, McCain cerca in qualche modo, visto che comunque, come tu stesso hai detto, ha fatto meglio di Obama nel dibattito, di avanzare qualche posizione in quello stato, una strategia alquanto sofisticata dietro l'apparente superficialità, ma sono convinto che non è un caso che è stato scelto un personaggio dell'Ohio piuttosto che di un altro stato, del Nevada, dove i repubblicani in genere sono più forti. Quindi questa è la prima osservazione. La seconda è che McCain è stato sicuramente più aggressivo che in passato, il dibattito è stato più interessante. Bob Schiffer di CBS è stato un intervistatore straordinariamente bravo, ha dato spazio, è stato flessibile, ha consentito ai candidati di interloquire, c'è stato un po' più di elettricità, direi, in questo dibattito che in passato, ma alla fine di tutto questo John McCain, che pure è stato pronto, non è riuscito a mettere al tappeto Barack Obama, avrebbe dovuto far quello per invertire le sorti di queste elezioni oggi. Ricordiamolo, Barack Obama è in fuga, ormai mancano meno di tre settimane alle elezioni, 20 giorni, e ha un vantaggio medio di 7-8 punti percentuali su base nazionale. Quindi questo è il quadro, direi, di insieme che è emerso dal dibattito, il quadro generale. Senti Mario, non hai la sensazione che al momento in cui, in un certo senso, a me è sembrato un po' controvoglia, quasi per obbligo, quasi per onore di firma, per contratto sociale, non so come dire, McCain ha tirato fuori la questione della negatività, insomma gli attacchi, ha cominciato a mettere sul piatto di Barack Obama tutti i noti coni d'ombra, Bill Ayers piuttosto che la Acorn, tutti i vari intoppi, diciamo, della carriera di Barack Obama, l'abbia fatto con una scarsa convinzione che è l'esatto contrario invece dell'Obama del McCain, scusami, che esplode poi in battute del tipo io non sono Bush, che è il McCain più spontaneo e forse anche più conosciuto e riconoscibile dagli americani, mentre quelle strategie di attacco così insidiose forse non gli appartengono completamente. Ma direi che si è reso conto John McCain che gli attacchi negativi, forti, un po' cattivi alla fine non pagano. La gente, a meno che non ci sia una sostanza davvero straordinaria sotto, la gente non li ama, la gente preferisce vedere dei candidati che facciano una campagna positiva, che portino un messaggio. Ricordiamolo, siamo in un momento difficilissimo, ormai si comincia a avere paura davvero per le strade, per quel che ci porterà la recessione, quindi il fatto che ci siano due personaggi che vogliono andare alla Casa Bianca, che si beccano l'uno con l'altro, beh, questo non aiuta il dibattito e alla fine ci si è resi conto non aiuta direttamente i candidati. Per questo Barack Obama è sempre stato molto più prudente, molto più freddo, molto più tranquillo, l'abbiamo visto anche nel dibattito di ieri sera, è proprio il suo classico stile, quello di non buttarsi nella mischia, quello di lasciare che il suo avversario scateni l'offensiva e lui in qualche modo fa un passo indietro per assorbire il colpo, per evitare di esporsi, per evitare di commettere un passo falso. E dunque però McCain non poteva esimersi naturalmente dal portare qualche attacco, l'ha fatto in modo più moderato, e direi la storia di Ayers è una storia a doppio taglio per Obama, perché se è vero che lo stesso Barack Obama ha risposto che quando Ayers, ricordiamolo, uno dei fondatori del movimento del Weatherman Movement, cioè un movimento underground che si proponeva di fare attentati terroristici nei palazzi pubblici, nei palazzi federali intorno all'America, quindi un personaggio veramente ai margini del terrorismo, ebbene quando aveva fondato questo suo movimento lui aveva 8 anni e dunque non poteva in alcun modo, come ha fatto la Palin in più occasioni, avere alcun collegamento persino con l'idea del terrorismo. Eppure Sarah Palin, che è la persona, poi il personaggio, un candidato a vicepresidenza che portava attacchi più diretti su Obama, così velatamente, neanche troppo velatamente, lasciava capire che forse era davvero un terrorismo, e questo naturalmente lo si ricollega a quell'altra zona d'ombra così diffusa a livello popolare, secondo cui molti ritengono che Barack Obama, per il suo passato in Indonesia, abbia dei collegamenti col mondo islamico e quindi, certo, con alcune frange del mondo terroristico. Quindi l'attacco c'è stato, Barack Obama ha incassato, ha risposto avevo 8 anni, ebbene lui ha continuato appunto con la storia di Acorn, cioè il fatto che Ayers ha creato un movimento poi per reclutare nuovi votanti, insomma per ampliare la base degli elettori, seguendo delle procedure non corrette, e lì ha attaccato molto forte McCain, sottolineando che questa addirittura è una minaccia alla democrazia. Ecco, quindi di nuovo attacchi che vanno poi al cuore del problema McCain vuole mettere in evidenza, cioè una questione di carattere per Obama, il fatto che non abbia esperienza, il fatto che davvero non lo si conosca fino in fondo. Senti, concludiamo, poi magari più tardi passeremo in rassegna durante il corso della trasmissione gli altri temi toccati al dibattito, ma a te vorrei rubare solo ancora un minuto per avere una tua valutazione attorno appunto a questa storia di Acorn. Se gli ascoltatori non lo sanno, sta per cominciare, è già in corso, ma sta per diventare, diciamo, di primo piano, di primo livello, una indagine con tanto di commissione che cercherà di fare chiarezza sull'attività di questa organizzazione, un'organizzazione di stampo progressista che raduna organizzazioni a scopo assistenziale che agiscono in moltissimi stati americani, che viene ritenuta, almeno in alcune occasioni, responsabile di frodi a livello di iscrizioni alle liste elettorali. Ecco, Mario, c'è qualcosa di molto grosso sotto questa storia, ovvero il 5 novembre, il giorno dopo le elezioni, è possibile che si cominci a sentir parlare di brogli e quindi di chissà quali infinite code dopo il voto degli americani? Guarda, tutto è possibile, dipenderà naturalmente da come andranno queste elezioni. Se ci sarà una vittoria schiacciante, come molti si aspettano, di Barack Obama, quindi non ci saranno più dubbi. Se dovesse esserci un margine molto, molto, molto stretto, allora, beh, tutto è possibile. Ma ecco, non credo che si arrivi a mettere, a tirare in ballo di nuovo Acorn. È possibile, non possiamo escludere nulla. Sappiamo che in passato è successo, è possibile che magari in qualche stato dove magari il voto è determinante ed è davvero molto stretto qualche cosa succeda, ma l'idea è che i numeri che ha mobilitato Acorn non siano così grandi da poter aver creato una tale irregolarità da addirittura falsare il risultato elettorale persino all'interno di uno stato. Grazie, grazie a Mario Protero. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. E questa è Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, fa suonare, no, risuonare un po' tempi di grandi battaglie civili, l'America degli anni 60, quell'America che la riapparizione in scena del deputato John Lewis della Georgia ha sicuramente fatto tornare alla mente di tanti americani, quando lui ha accusato McCain con tutta la negatività delle ultime settimane di campagna di cominciare ad assomigliare, se non politicamente, a George Wallace, il noto politico americano portabandiera del segregazionismo, se non altro agli echi di quella politica così pericolosa, così combustibile, no, che può creare incendi sociali. Ieri McCain ci è tornato sopra pesantemente, dicendo: mi sono sentito offeso come poche volte nella mia vita pubblica. I McCains sono una famiglia che da sempre si batte per la libertà e la giustizia nel grande paese. Non posso accettare lontanamente una presa di posizione di questo genere. Obama ha cercato un po' di contenere effettivamente quella sparata, insomma quell'attacco, che era sicuramente motivato da una certa stanchezza, da una certa irritazione per la negatività degli spot televisivi, soprattutto di McCain e dei discorsi di Sarah Palin, ma insomma l'incidente è rimasto in sospeso. Ma come dicevamo, il momento migliore di McCain è arrivato per caso. A un certo punto, mentre Barack Obama gli stava tessendo, no, la solita tela, gli stava tessendo il solito mantello che lo faceva assomigliare terribilmente all'inquilino degli ultimi 8 anni alla Casa Bianca. Senator Obama, I am not President Bush. If you want to run against President Bush, you should have run 4 years ago. I'm going to give a new direction. La gente ha perfino riso, ha detto McCain, ha detto: senatore Obama, senta un po', io non sono George W. Bush. Se voleva correre contro George W. Bush, doveva correre 4 anni fa. Adesso qua ci sono io, faccia per favore i conti con me. Che dire dal punto di vista stilistico del comportamento dei due candidati? Ormai si sono un po' abituati l'uno all'altro, tant'è vero che anche la tensione era meno palpabile delle volte precedenti, anche se questa volta gli argomenti in fondo sono stati più aperti, più sviscerati, in certi casi anche più caldi, insomma. Obama ha proseguito la sua scelta comportamentale, che ha contrassegnato in realtà gli ultimi 2 mesi, diciamo, della sua campagna elettorale, da quando ha lasciato le primarie ed è entrato fino in fondo nei panni del candidato alla Casa Bianca. È sembrato tranquillo, coerente, solido, sobrio, sufficientemente empatico anche con tutto l'ambiente che lo circondava, con il suo stesso avversario. Difficilmente si è lasciato andare a momenti di nervosismo. È stato sempre sul programma, ha continuato a battere i tasti del programma, che ha affrontato anche con una relativa profondità, trattandosi di un dibattito elettorale, soprattutto parlando di salute, di sanità e di educazione. Argomenti sono stati sviscerati. Tra l'altro è stato molto chiaro il confronto tra le posizioni sulla sanità per tutti gli americani propugnate da Obama e da McCain. Obama ha chiaramente un tasso di statalismo molto superiore a quello di McCain. McCain glielo rinfaccia, però Obama può dire agli americani che non hanno assistenza sanitaria: vi piacerebbe, cari americani, avere la stessa assistenza sanitaria che ho io, senatore Obama, o che ha questo signore a mio fianco, senatore McCain? McCain dice: attenzione, vi leva i soldi dalle tasche, poi promette di ridarveli, ma intanto transitano per lo Stato. Un ascoltatore scrive e chiede: ma chi è questo Joe l'idraulico? In due parole, allora, è un personaggio che, come diceva Mario Platero poco fa, Obama ha incontrato per strada facendo campagna elettorale, proprio per strada, nella cittadina di Toledo, nell'Ohio. Si chiama Joe Wurzelbaker, ha fermato Obama e gli ha chiesto chiarimenti sulle strategie fiscali del senatore dell'Illinois. Ci ha anche discusso animosamente, ma in modo anche comunque corretto al centro di un capannello di persone. È stata notata la sua apparizione, soprattutto la sua posizione polemica nei confronti di Barack Obama, soprattutto dai blog conservatori, che hanno cominciato a rilanciare lui, il breve filmato, la sua immagine, quel suo dubbio che ha espresso pochi giorni dopo, quando è stato invitato da Fox News, da Neil Cavuto, un anchorman di Fox News, che gli ha chiesto come si fosse sentito davanti alle rassicurazioni di Obama, e lui ha risposto: ma veramente io sentivo addirittura un certo odore di socialismo, che detto da un americano della working class non è un complimento. Adesso però Joe l'idraulico, che è stato invocato credo un totale di 13 o 14 volte da Obama e McCain, è una star assoluta, perché in realtà è il simbolo a tutti gli effetti dell'americano vero, dell'americano che sta per scegliere a chi affidarsi, se dare il mandato fiduciario che John McCain richiede, oppure se schiacciare il bottoncino del cambiamento propugnato da Obama. Ascoltatori, i dibattiti sono andati, sono finiti, 1, 2, 3 per quello che riguarda i presidenti in pectore, 1 secco per i vicepresidenti, sono stati consumati, non hanno sostanzialmente cambiato molto gli scenari, non hanno probabilmente dato spinte particolari ai sondaggi, è piuttosto facile presupporre che abbiano chiarito comunque meglio agli americani quali sono le personalità in ballo e anche un po' gli stili in ballo. Tra l'altro si viene a sapere che oggi, all'indomani dell'ultimo dibattito, McCain e Barack Obama siederanno allo stesso tavolo a New York, in un saranno probabilmente addirittura in fracca, l'Alfred Smith Dinner, cena di gala organizzata per beneficenza dall'arcivescovado di New York, sarà quindi una presenza così formale. Tra l'altro stasera è in programma, e questo lo dico agli appassionati, anche la famosa, più volte rimandata apparizione di John McCain al David Letterman Letterman Show, quindi domani sera dovremmo vedere in Italia, o già stasera, se andate su YouTube da qualche parte ne potrete cogliere, stanotte ne potrete cogliere qualche, magari qualche scheggia, sempre che magari complice la cena un po' pesante consumata dall'arcivescovo. Ma McCain va in frac da Letterman? No, si cambia in macchina, si cambia in macchina. Ma soprattutto bisogna vedere cosa mangia l'arcivescovo, cosa beve l'arcivescovo, magari tira un'altra buca a Letterman, che secondo me a quel punto impazzisce. Prima pagina. Dunque, prima pagina di stampo altamente cinese, perché molte sono le notizie, e abbiamo anche un ospite in linea che saluto subito, un amico di Jefferson, Daniele Barbone, direttore BPSEC, azienda che si occupa del controllo qualità dei prodotti dalla Cina e l'Europa. Emiliano, introduci l'argomento. Daniele, buongiorno intanto. Buongiorno. Allora, rassegna stampa cinese, ma in realtà in salsa italiana, perché il famigerato latte alla melamina, di cui abbiamo raccontato in lungo e largo in queste settimane, e tra l'altro abbiamo anche dato notizie di sequestri di latte o di prodotti arrivati dalla Cina che riguardavano la Svizzera, la Francia, praticamente tutta l'Asia, la Gran Bretagna, ebbene, il corpo del reato è giunto anche dalle nostre parti qui vicino. Daniele, insomma, abbiamo letto le notizie oggi di questo sequestro di tonnellate di latte contaminato, di tre campioni in particolare che hanno la presenza di melamina. Qual è lo stato delle cose dal tuo punto di vista di esperto? E diciamo, quanto c'è da preoccuparsi? Beh, a livello comunitario le maglie si sono strette di molto a partire dal 24 di settembre. Il 24 di settembre la Direzione Generale Salute e Consumatori dell'Unione Europea ha chiesto un parere autorevole all'Autorità Europea di Sicurezza Alimentare, perché come avevamo detto non c'erano ancora dei limiti stabiliti ben chiari per quanto riguarda il contenuto di melamina nei prodotti a base lattiera che venivano commercializzati in Unione. Il parere è stato prodotto poi nei giorni successivi, conseguentemente dal 25 di settembre su iniziativa della Commissione Europea è stato stabilito univocamente un contenuto che non deve essere superato per quanto riguarda il contenuto di melamina nei prodotti lattiero-caseari. Ricordiamo che il latte in assoluto, il latte che viene dalla Cina, già per gli accordi preesistenti non dovrebbe trovarsi in libero commercio nei nostri scaffali. Laddove si trovano dei prodotti a base lattiera di latte nel nostro mercato, adesso si sa che non devono contenere più di 2,5 mg per ogni chilo di prodotto che viene commercializzato. Ecco, quindi Daniele, ma questo latte cosa, diciamo così, cosa è venuto a fare in Italia? Ma evidentemente in gran parte si può ritenere che sia un dolo, perché non si doveva trovare un prodotto latte fresco sul nostro mercato, quindi già questo è un primo aspetto che ci mette in qualche attenzione. Per il resto anche sui derivati, a questo punto si è detto che si è trovato degli yogurt, la normativa a questo punto a livello comunitario è chiara, tutto ciò che viene e che contiene anche solo in tracce latte che viene dalla Cina deve essere certificato per quanto riguarda l'assenza del contenuto di melamina al suo interno sotto determinate soglie che sono state finalmente stabilite. Daniele, il comandante dei NAS che ha effettuato tutti questi sequestri e ha commentato anche i dati del laboratorio di analisi su commissione peraltro del Ministero del Welfare, che ha la delega sulla salute, sulla nostra sanità, ha detto che la presenza di melamina non è letale ma comunque è nociva. Da questo punto di vista, che cosa ci puoi dire di più su questo latte contaminato che è finito in Italia attraverso soprattutto il porto di Napoli? Teniamo presente che la melamina ha problemi di tossicità soprattutto per gli individui di più basso peso, quindi per i bambini, perché per un adulto per poterne consumare una quantità che crea anche solo un effetto di intolleranza ci vogliono 40 o 50 litri in un giorno, quindi una quantità che sicuramente è poco realistica. Non a caso in Cina i contaminati sono tutti e solo bambini. Sono tutti bambini, e difatti la concentrazione che potrebbe determinare delle difficoltà per i bambini, a quel punto siccome il peso dell'individuo è molto basso e comincia a essere una soglia raggiungibile anche con quantità di latte molto più basse, quindi si parla di 1-2 litri, no? Per le concentrazioni che avevano anche i prodotti riscontrati in Italia, questa soglia non è tale da dover far pensare che chi l'avesse consumato può aver avuto degli effetti, però siccome esiste un limite, che è quel famoso 2,5 che dicevamo prima, e siccome alcuni campioni ne contenevano da 3 a 20 mg per ogni litro di prodotto, è evidente che giustamente, a prescindere da quale ne fosse stata la destinazione, dovevano essere sequestrati. Quindi una concentrazione anche 10 volte superiore alla media europea. Ma secondo te, Daniele, questa volte superiore al limite stabilito. Questa notizia di oggi è episodica o può aprire il fronte così a nuove sorprese per il futuro, sia prossimo che più a lunga scadenza? Beh, Belgio e in Inghilterra si erano trovati già delle caramelle e delle merendine, da questo punto di vista, che avevano dei contenuti di melamina. Adesso la normativa dice che tutto ciò che viene dalla Cina e che contiene più del 15% di latte deve essere comunque controllato. Che entri adesso, che ci sia entrato prima, non importa, le autorità devono controllarlo. Naturalmente il consumatore non ha alcun modo, no, per dedurre una presenza del genere. L'origine del prodotto deve essere indicata e quindi una merendina deve indicare chiaramente dove è stata fatta. Certo, certo. Parliamo di circuiti veramente molto difficili da avvicinare nel grande pubblico, certo. però nei circuiti che pure possono portare alla presenza di prodotti alimentari che arrivano dal Far East, bisogna che le autorità, così come stanno facendo e come i risultati dimostrano, tengano alta la vigilanza e facciano i controlli che sono stati stabiliti a partire dal 25 del mese scorso. Emiliano, vogliamo chiedere chiarimenti a Daniele anche a questa notizia, che ha un po' il sapore del contrappasso. È una notizia speculare che però non sta girando ancora, perlomeno sulle nostre frequenze, e cioè che alla fine i cinesi anche loro hanno sequestrato dei prodotti in arrivo invece dall'Italia, quindi i ruoli sono perfettamente invertiti. È anche una soddisfazione. Che è successo, Daniele? Ma me lo segnalavano i miei uffici ieri da Shanghai, e si riferiva ad alcune partite di riso. Abbiamo parlato, ha parlato anche importanti imprenditori del settore, hanno parlato del fatto che è ancora un mercato di nicchia, ma già qualcuno si muove. Abbiamo seguito diversi casi che riguardano l'importazione di riso italiano in Cina. Le normative in Cina dal punto di vista del riso sono molto protezioniste, è evidente che sia così, e quindi determinano dei criteri e anche delle modalità di importazione che sono abbastanza complesse da poter rispettare. Siccome delle partite di riso che si trovavano a Pechino hanno dimostrato che non superavano questi requisiti che le autorità cinesi avevano stabilito, sono state mandate una quantità approssimativa di un container è stata mandata a macero da parte delle autorità di controllo cinese. Va bene, grazie a Daniele Barbone, a risentirci prossimamente sempre sulle onde del controllo qualità. Abbiamo altre notizie, Milano? Sì, una riguarda il boom delle nascite per effetto delle Olimpiadi. Già la Cina ha problemi di abbondanza perché sono 1.300.000.000 di persone. Ebbene, è stato calcolato che in particolare nella provincia del sud del Guangdong, che è la provincia più popolosa della Cina, nei primi 9 mesi dell'anno, per effetto di questa euforia olimpica, sono già nati 1 milione di bambini, e entro dicembre saranno 1.200.000, quindi si arriva... Euforia olimpica perché guardavano la televisione Non so, l'esultanza, il nazionalismo di questo periodo. Ogni medaglia, abbiamo vinto! L'euforia, la gioia di ospitare questo evento straordinario. Insomma, pare che ci sia un traino, ecco, dall'inizio dell'anno sulle Olimpiadi. E tra l'altro ne approfitto perché dal Guangdong ci ha scritto ieri una bella mail, breve ma intensa, Massimo, che racconta di un gruppo di cui fa parte anche lui, di giovani italiani, una quindicina, che vive felicemente in Cina da quelle parti, e ci dice: la Cina è affascinante, l'Italia invece è bellissima ma piccola e soprattutto ferma. Spazio di Jefferson Ming di oggi, parliamo di vita da corrispondente di un grande quotidiano. Nella fattispecie parliamo di Fabio Cavalera, che da qualche giorno non è più il corrispondente del Corriere della Sera dalla Cina, perché sta cambiando destinazione e conclude una esperienza professionale di 4 anni che lo ha trasformato, insomma, lungo questo periodo di tempo in un abile, apprezzato narratore, no, per noi qua da lontano di quel paese che poco alla volta abbiamo dovuto, voluto e anche con curiosità, insomma, indagato, scoprire, era necessario perché si avvicinavano le Olimpiadi, perché di Cina si sente parlare sempre più, perché la Cina è dappertutto e un cronista come Cavalera ci ha aiutato a capirla meglio, tra l'altro anche firmando un libro pubblicato da Einaudi che si chiama Il manager dei bagni pubblici e altre storie di vita cinese. Cavalera è in linea, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora Fabio, vorrei, se possibile, naturalmente in chiave del tutto informale, stendere per tua voce un piccolo bilancio, no, di, sia professionale ma credo anche un po' umano, di questa esperienza. Sei stato là un lasso di tempo lungo, significativo. Che mi dici? Dico che è stata un'esperienza da un punto di vista professionale straordinaria, perché come rimettere in circolo tutto il proprio cervello, smontare vecchie convinzioni e crearsi nuovi orizzonti. È straordinario da un punto di vista umano perché mi ha dato la possibilità di conoscere tantissima gente, di conoscere meglio il popolo cinese, sia le persone più umili e sia anche le persone che sono entrate di forza nel circuito dell'economia internazionale, dell'economia globale. E quindi per un giornalista che cosa c'è di meglio che non avere un'esperienza di questo tipo, ecco, straordinaria. Tu hai fatto appunto 4 anni là, ma parlando un po' proprio in termini di professione, magari questo può interessare anche a tanti nostri ascoltatori, blogger, giornalisti in pectore che ci scrivono, per esempio arrivando in Cina quanto ci si mette, quanto è necessario, se si lavora seriamente naturalmente, per cominciare a diventare in modo credibile, attendibile, valido, corrispondente, ovvero quanto ci vuole per entrare poi nel sistema, no? Nella rete della comunicazione che ti fa essere corrispondente? Beh, questa è una bella domanda, nel senso che io francamente credo che capire la Cina sia difficilissimo e tutto sommato dopo 4 anni non posso di certo dire che ho capito la Cina, sì. E credo che nessuno lo possa dire, neanche coloro che hanno le convinzioni più forti. È un paese che va seguito giorno per giorno, chiaramente alcune piccole sottigliezze si incominciano a comprendere il modo di ragionare, di atteggiarsi, certo, di comportarsi dei cinesi col tempo. Certamente non basta un mese, non basta, ci vuole molto, moltissimo tempo. È impossibile dire capire la Cina, lo ripeto, ma per scoprirla ci vuole molto tempo. Senti, quali sono le storie, le grandi o piccole, non so, questo, dimmelo tu, storie che ti porti dietro, che ti porterai sempre dietro da questa esperienza di lavoro, magari sono semplicemente, che ne so, la sera di inaugurazione alle Olimpiadi o magari un incontro, un'intervista, quali? Guarda, sono alcune interviste che ho fatto sia per il libro e sia anche per il giornale. L'intervista a una donna mi ha colpito molto, una signora anziana di 80 anni, una ginecologa, che è la signora che poi ha scoperto lo scandalo dell'AIDS nella provincia delle Henan. Certo. Poi mi ha colpito di recente l'intervista completamente opposta che ho fatto a uno dei protagonisti dell'economia cinese, Jack Ma, che è uno dei tycoon del settore di internet, che mi ha portato a vedere la sua azienda, dove ho visto 10.000 ragazzi, un'azienda dove l'età media dei ragazzi è di 26 anni, e vedere come lavoravano, la passione con cui lavoravano, l'attaccamento all'azienda che hanno, francamente mi ha lasciato, mi ha colpito molto. Ma dico queste due perché sono due segnali opposti, in verità, certo, ce ne sono tantissime. Molti forse direbbero le Olimpiadi, ma in verità le Olimpiadi non mi hanno lasciato un segno. Sei sopravvissuto alle Olimpiadi. Sono sopravvissuto, ma soprattutto alla fine ne esco un po' deluso, francamente, perché avendone fatte tante altre, certo, ho visto una Olimpiade un pochino, è sempre entusiasmante, una cerimonia inaugurale entusiasmante, ma il clima complessivo delle Olimpiadi mi ha lasciato un po' freddino. Esatto. Hai intenzione di rimettere mano alla penna dell'autore editoriale? Hai intenzione di scrivere qualcos'altro sulla Cina? Sì, assolutamente sto scrivendo e penso che all'inizio dell'anno prossimo andrà in libreria. E la destinazione, la prossima destinazione ce l'hai già chiara o è ancora da fissare? È quasi chiara. Ma non la vuoi dire? È europea. Va bene, ci avviciniamo a casa. Grazie a Fabio Cavalera, grazie anche naturalmente per il lavoro che lungo questi anni ci ha fornito raccontandoci la Cina. C'è un incontro di una delegazione italiana con l'ambasciatore Spogli, la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, che sarebbe l'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, presieduta dall'onorevole Riccardo Migliori del Polo di Libertà, composta da 13 parlamentari, 7 senatori e 6 deputati, ha incontrato oggi presso la Camera Ronald Spogli, che è l'ambasciatore americano in Italia, in vista della prossima missione di osservazione delle elezioni parlamentari e presidenziali negli Stati Uniti. L'attività di osservazione delle elezioni è la caratteristica dell'OSCE e della relativa assemblea parlamentare, i cui componenti vengono invitati a partecipare alle missioni di osservazione in occasione delle elezioni nei paesi appartenenti alla organizzazione. I parlamentari dell'assemblea parlamentare dell'OSCE, guidati da João Soares, portoghese, che parteciperanno alla osservazione, quindi al controllo di qualità, diciamo così, delle elezioni americane, saranno più di 100. Gli italiani sono 7. I parlamentari italiani saranno presenti in Florida, Missouri e New Hampshire, e magari li andremo a stanare per avere in diretta da loro alcuni rapporti, no, su quello che sta succedendo. Jefferson Ming di oggi, il giorno del dibattito, la notte del dibattito. Abbiate quindi compassione dei vostri cronisti. Io sono Stefano Bistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Pietro Lacorte. Jefferson Ming, radio24.it, replica alle 9, diretta domani alle 4 qui da Radio 24. 沉默的人最聪明，不做无聊的回忆。